dottore, cadono ma sono importanti. Ma direi che sono importantissimi per due ordini di fattori. Prima di tutto il dente da latte è la guida per la dentatura permanente, quindi danni o problemi ai denti da latte possono compromettere la dentatura permanente, questa è una prima cosa. La seconda cosa molto importante è che stiamo parlando di bambini generalmente piccoli, sì, e quindi non è corretto, non è morale farli soffrire inutilmente. Molte volte si tralasciano le carie o i denti che hanno problemi ai bambini piccoli, però bisogna pensare che sono comunque sempre molto dolorose queste patologie nei bambini e bisogna fare in modo che perlomeno non sentano dolore.